Amici di Runtime, buonasera con lo sciacquone. Questa è una di quelle sere da grandi occasioni e visto che è una grande occasione abbiamo preparato anche il cast delle grandi occasioni, perché ci sono in diretta con me intanto i padroni di casa Marco Gualdi e Simone Pizzi, ma anche Michela che ci ha appena lasciato dall'altro podcast. Ciao a tutti. Ciao, comunque a me me l'hai rotto il cast, cioè. Infatti te ne potevi stare a lavorare lì al chiuso della tua agenzietta, non per sì, cile sì, infatti, no. Poi ci racconti come sta andando. Vabbè. Salutiamo anche per le grandi occasioni, perché ci sono con noi Alex Raccuglia da Milano. Ciaissimo. Abbiamo con noi Lobster Frontale da Reggio. Non specifichiamo mai quale Reggio, ma serve. Sì, Reggio di Credo. Mi sembra dipende quanto reggio io. No, mi è venuta brutta, ragazzi. Da passata al prossimo, perché devo vergognarmi un attimo. Meno male che non siamo in diretta, o sì, chi lo può dire? E poi sì, ci sta per raggiungere anche Carmine, detto Puccio, detto il console, che si sta setuppando anche lui. Allora, ragazzi, la puntata aveva una sua piccola scaletta. Chiaramente noi ci creiamo sempre un canovaccio che non va oltre le tre righe. Però, insomma, scaletta. Sì, scaletta, vero. Il tema, però, era definito. Soltanto che nell'ultima mezz'ora è successa la notizia più bella di questo 2020. E quindi la vogliamo far rimbalzare il più possibile. Cioè, è finito? No, fino ad adesso, Marco. Insomma, almeno per questi 4 mesi e un pezzetto di 2020. No, è finito il 2020. Ma magari. Che bella notizia che poteva capitare in questo momento. No, niente. No, Marco. Abbiamo trovato il vaccino per il coronavirus. No, non esageriamo. Insomma, una terapia adeguata che ci permette. Il plasma. Voglio il plasma nelle vene delle persone. No. Io OLED. Solo OLED. Niente. Ma infatti, tutto questo plasma sprecato per i televisori. Quando poi viene fuori che serve a curare le persone. Però ne parliamo dopo. Perché ricordiamo cosa era successo a novembre 2018 nel villaggio di Chakama, a 80 km da Malindi, quindi in Kenya. Era stata rapita una cooperante italiana che si chiama Silvia Romano, che lavorava per una onlus chiamata Africa Milele, mi pare. Bambata. Africa Bambata, no vabbè, non scherziamo. Ed era stata, diciamo, si erano perse completamente le sue tracce. Mezz'ora fa, fulmine a ciel sereno, arriva un tweet del presidente del consiglio Giuseppe Conte, poi rimbalzato e confermato da varie fonti. Silvia Romano è stata liberata grazie al lavoro delle donne e gli uomini dei servizi di intelligenza esterna italiana. Quindi stiamo aspettando di avere maggiori notizie, però la conferma del fatto che Silvia sia stata liberata direi che ce l'abbiamo tutta, e quindi è il momento di gioire per la prima volta, insomma, negli ultimi mesi, no ragazzi? Sì. Vabbè, non... sì, anche io seguivo, in realtà farei parlare più qualcun altro, perché anche io seguivo poco, cioè non ho saputo poco, quindi faccio parlare più gli altri. Beh, no, in realtà ne abbiamo saputo poco tutti, proprio perché, insomma, si avevano delle piste, si sapeva che probabilmente era stata subito spostata in Somalia, che era stata probabilmente venduta a dei gruppi, diciamo, di guerriglieri, gruppi politici. Non c'erano certezze. Però, se è vero come è vero, per esempio. Salve. Ciao Michela. Scusate, eccoci. Volevo avvisarvi che eravamo caduti. Ah, ecco, non ce ne eravamo neanche resi conto. Dicevo, apriamo con il cast delle grandi occasioni, perché c'era questa grandissima bella notizia che avete già dato durante le ricette apocalittiche, ma che poi abbiamo avuto modo, diciamo, di confermare anche leggendo il tweet del Presidente del Consiglio. Quindi Silvia Romano è stata liberata. Stavamo cercando di riassumere un minimo la storia di questa ragazza che era stata rapita nel novembre 2018 e della quale si erano perse le tracce. Però c'è da dire che, come ci ricordava ogni santo giorno il povero Civati, tanto bistrattato, che ogni giorno aveva un pensiero per lei, tutti erano convinti, e a questo punto assolutamente ragione, che fosse ancora viva. Quindi probabilmente i servizi di intelligence tenevano sotto controllo la situazione. Auguriamoci che sia stata una macchina che ha funzionato bene e che non sia stata solo diciamo fattore K. In ogni caso, Silvia Romano è stata liberata. Michela, tu hai avuto modo di leggere qualche altro dettaglio nel frattempo? Allora, io intanto ho scritto, perché quando ho sentito questa notizia l'avevano scritto su WhatsApp, e ho visto il tweet che il Facebook che aveva messo Giorgio Giorgi, che è il cugino di mio marito, che è giornalista e diciamo, vabbè, lavora per diversi servizi stampa eccetera. Quindi io ho scritto a lui, dico: ma è vero? Mi ha detto sì, e quindi mi sono sentita di dirlo in diretta. Beh, che stavo facendo una, diciamo così, una trasmissione su tutt'altro, però mi sembrava una notizia veramente importante. Poi ricordati, sono andata a controllare. Ricordati il newsroom dove il conduttore sostituito fece tutta la diretta di 13 ore per il 3, per l'11 settembre, ricordatelo. Mm. Bellissima serie Newsroom, lo diciamo sempre, tra l'altro. Capolavoro. Newsroom è sì, una bellissima serie, però in questo parte le sottotrame romantiche del cazzo. In questo momento non mi ricordo la scena, quindi no, ragazzi, ma com'è che entro e state parlando dei film di Sorkin? Cioè, o meglio, delle serie TV di Sorkin. No, era stato noi ci piace la Sorkin. Grande, grande applausonen. Santa verità, basta, dopo tofu, dopo glutine, parliamo un po' di ciccia, un po' di Sorkin, grande, grande. Sto ordinando il sushi. In realtà la prima cosa che sono andata a vedere su Twitter è proprio il Twitter di Civati, perché mi ricordo che lui scriveva sempre almeno una volta al giorno su Via Romano. Civati tutti i giorni ricordava che dovevamo ricordare a nostra volta Silvia Romano, insomma. E così alla fine, insomma, notizia. Io esattamente. E cosa farà da domani? Allora, già detto che non vuole tornare a Milano, chissà perché. No, non è vero, però insomma. Beh, prima di tutto bisogna vedere questa anche in condizioni di torno. Sì, di no, vabbè, probabilmente ci vorrà qualche giorno, perché penso che insomma dovranno. Però allora dipende, nel senso che molto spesso queste persone sì, non vengono trattate bene, però non vengono neanche, diciamo, trattate malissimissimo. Nel senso, dalle ultime notizie che ci avevamo, non stava veramente passando dei momenti molto. Almeno se quelle notizie sono confutate, sono vere, in realtà non era stata, perché era comunque stata rapita dai separatisti islamici, era stata costretta comunque. Del Burmini, laici. Una cosa del genere. Laici del Burmini. E oggi quindi è la seconda insomma volta che ci citiamo, ragazzi. Laici sembra una buona notizia in tutto questo, però. Forse è l'Aidi, però non vorrei sbagliarmi. Speriamo di no. Vabbè, comunque, ovviamente. Speriamo che sia stata trattata bene, ma non ci aspettiamo, insomma, che torni un fiore. No, però no, ma quello no. Speriamo che torni e che si riprenda, diciamo, appieno, psicofisicamente, nel minor tempo possibile. E niente, ovviamente, se nel frattempo le notizie di agenzia si arricchiscono di dettagli, abbiamo la nostra oretta davanti, cercheremo di darle anche noi. Posso chiedervi la collaborazione per accumulare le notizie di quelli che posteranno cose tipo però è tornata abbronzata, sarà andata a divertirsi. Sì, no. Ho voluto quindi, stavo finendo, ho fatto i dediri e poi vi lascio la parola. Ho evitato attentamente i commenti sotto i tweet, soprattutto quello di Conte che annuncia che Silvia Romano è stata liberata, e che veramente non lo fate. Alta attenzione, ragazzi, ricordo. Michela, sei entrata in cattedrale, che è successo? No, non è colpa nostra, cioè. È la voce di Dio. Esatto. È il laser di qualcuno che ha messo gli altoparlanti? Non lo fa. Mi è entrato a me l'auricolare, ragazzi, scusate. Puccio, mo ti cacciamo dalla classe, ti mettiamo all'angoletto comunque. Puccio, io ti devo fare tra virgolette, come dire, una piccola rimostranza. È tanto precisa, ordinata e organizzata tua moglie nel podcast, poi arrivi tu, il caos. Ma perché? Scusate, correggo subito. No, veramente sei doppio, eh? Sì, se no mi sembro il Papa. Cioè entra audio da due fonti, quindi. Sì, ho trovato anche quale. Ok, ora non dovreste sentirla più. Ok, adesso va bene. A posto. No, vabbè, dicevo, non guardate i commenti, perché sennò veramente vi viene. No, no, i commenti tossici lasciamo proprio stare, ragazzi. Sì, no, godetevi la gioia, perché questa è veramente una notizia importante per il nostro paese. Io la penso così e penso che condividerete con me questo pensiero. Beh, noi abbiamo esordito mentre voi eravate cascati dicendo che è diciamo, per adesso la notizia migliore di questo scorcio di 2020, questo primo quadrimestre di 2020, ci ha portato l'unica bella notizia finora, che è questa. E permettetemi di salutare gli amici, ma soprattutto le amiche in chat, perché oggi vedo le quote rosa volare, perché abbiamo Lullaby, abbiamo Girasole e abbiamo Kate. Poi c'è questo lobby frontali con i capelli lunghi che non so bene dove lo devo posizionare, però insomma, poi Alessandro. È lobby, nome e frontali e cognome. Dipende se ho risalito il fiume come i salmoni o meno. Cioè, ancora no, quindi sono ancora. Devo controllare. Aspettare un attimo che controllo cosa sono adesso. Bene, perché dipende, si sa. Dipende anche dalla temperatura con cui mi sono fatto la doccia, tipo Ram. Esatto. E dalle goccine che hai preso, insomma, ricordiamoci. Sì. Va bene, no, ragazzi. Insomma, dai, la notizia è bella, però a questo punto. Ripeto, se trovate degli aggiornamenti, delle aggiunte da dare, ovviamente le forniremo in diretta senza problemi. Torniamo a quello che era l'unico tema portante di questa puntata, e quindi chiedo anche l'aiuto del nostro corrispondente da Milano, che non è lo spiegonista, ma è, diciamo, il cittadino del posto, perché chiaramente lui, sono sicuro, non si è andato a fare l'aperitivo sui Navigli, però magari ci può raccontare, da un punto di vista un po' più attendibile, queste famose foto pubblicate su Repubblica un paio di giorni fa, riferite al pomeriggio di lunedì, primo giorno post lockdown, quindi primo giorno di fase 2, che volevano rappresentare questi Navigli strapieni di gente assembrata senza mascherine. Poi pare, insomma, che la cosa in parte si sia ridimensionata, perché dalle angolature giuste le foto erano meno schiacciate, quindi si vedeva che forse l'assembramento non era poi così tale. Però, insomma, un po' di gente di troppo c'era. Cioè, che differenza fa se l'assembramento era tanto o era poco? Era ridicolo proprio la cosa in sé. Cioè, nel senso... il numero, però. In realtà, ho visto pure i video. I video c'è un fottio di gente, non necessariamente. La questione è capire. La questione del pelo, l'incidenza. Se sono 15 o se sono 25, ma che, cioè, nel senso. Permettimi di dire, scusa, poi vi passo la parola. 15 idioti sono più rassicuranti di 150 idioti. Quello 150, voglio dire. Quello sì, ma siccome tanto non cambia. Sì, comunque, coronavirus nuovo bollettino: mai così bassi i nuovi contagi, superati 100.000 guariti. Probabilmente i dati migliori da inizio epidemia. Probabilmente. Meno male. Bello, probabilmente. No, ormai stiamo veramente al caso, all'interpretazione casuale, Alex. Allora, ti faccio un'esperienza. Io sono, quando mi hai richiesto vuoi entrare in chat, in trasmissione, io ero tornato da 3 minuti da un giro. Sono andato in giro in bicicletta, cosa che faccio da lunedì, tutti i giorni, perché tenendo, rispettando le cose che devo rispettare. Faccio un giro di 18 km, di cui 4 km una strada, una pista ciclabile, e il resto su strada. Ecco, in questa parte di pista ciclabile che passa anche attraverso alcuni prati ho visto 100 persone almeno, veramente sparse in vari modi, ma tanti, effettivamente potevano farlo. C'erano le famigliole in cui c'erano due genitori, due bambini, però con l'atteggiamento, cioè nel senso della passeggiata a cazzeggio, e veramente tanta passeggiata a cazzeggio, tantissima gente, più di quanta veramente mi è salito il De Luca dentro. Mi sono detto, adesso io fossi Sala direi, sapete che c'è, ma avete rotto il cazzo, andate tutti a morire, proprio direi una cosa del genere, sbattere la porta e direi basta, non curate più nessuno, andate tutti a fanculo. No, allora, posso dire una cosa, che poi io mi eclisso per un periodo perché devo fare delle cose, dico, quindi rimane Michela, insomma, quindi bastate lei, insomma, alla fine. Io dico soltanto che il problema non è tanto il fatto che, cioè, io capisco che come è stata allentata un po' la cosa, la gente non ci ha capito niente, no? Cioè, si è fatta prendere, diciamo così, da un po' di euforia, e questo, guardate, da un punto di vista strettamente psicologico lo arrivo pure. Era quasi previsto, sì. Esatto, cioè lo posso pure, cioè voi dire, ci può anche sta. Il problema è che nelle zone in cui questo non doveva succedere, quindi in Lombardia in particolare, sono stati i posti dove ovviamente il comportamento è stato il peggiore. Quindi questo è proprio indice di un problema, cioè nel senso che a questo punto dobbiamo associare comportamento al contagio. Ma evidentemente pure a Monterotondo lunedì c'è stato i ragazzini che giocavano a pallone per strada, e tant'è che è dovuto intervenire il sindaco, dice no ragazzi, qua Non ci siamo. Qualcosa non avete capito, cioè nel senso. Però vabbè, cioè nel senso, un po' lo capisco. Un po' dal momento in cui si allenta un pochino, secondo me la gente perde un po' la percezione del problema. Perché a quel punto, vabbè, dai, mo però abbiamo potuto fare sta cosa, potremmo fare pure quest'altra, no? Cioè, nel senso, ma in questo forse paghiamo anche un pochino il difetto intrinseco che ha avuto il nostro governo in questi 2 mesi, e cioè di comunicare a casaccio. A cazzo le gambe. A cazzo dei cani. Usa i termini, esistono degli termini scientifici precisi per identificare in modo univoco una situazione del genere. Usiamoli, porca madonna, cazzo dei cani. Ma io no, calmati. Sì, no, c'è stato a un certo punto un volo pindarico. Adesso mi calmo. Adesso mi calmo, faccio come è volato qualcosa che non dovrebbe volare stando alla scienza, eppure vola lo stesso. Perché è come il calabrone, non sa che non può volare. Che per quello che mi riguarda ho cercato di attenermi al senso civico, e sperando che tutto il resto tutto il resto della popolazione, tutto il resto muoia probabilmente. Sì, più o meno, nel senso che a un certo punto mi sono detta ok, sì, si possono fare determinate cose, ma la moderazione credo che sia la chiave. Invece no, nel senso che no, non è così. No, il discorso sì, cioè, insomma, è abbastanza sfaccettato, perché tante persone hanno probabilmente appunto sull'impeto del momento un po', come dire, interpretato largamente questa fase 2. Si possono andare a trovare i congiunti, questo non significa scialla, non potete diciamo così avere un comportamento pre-epidemia. Poi è chiaro che quello che succede dentro le case non lo puoi né andare a controllare né andare a sindacare, però il messaggio che è stato lanciato era quello: sì, vai a trovare il parente di quinto, sesto, diciottesimo grado, va bene, però tieni le distanze, rimani con la mascherina, salutatevi. Guarda, però Walter, io ti dico solo questa cosa, ho chiamato, sai, perché io sono tornato al lavoro ed è un vabbè, tanto per dire, infatti spizzi a casa, poi Marco spizzi gioia a tutti i pori di questa cosa, si sente proprio, sì, nell'enfasi, perché sai, se il problema dell'andare al lavoro è quando stai poi a contatto con la gente che potresti essere infetto, quindi non ho avuto problemi perché non c'era gente, allora, senti, ma la nostra Luis Veronica realtà, di zona si è presentata, la logica è un po' sbagliata, perché se tu vai a vedere, andare a trovare gli amici, tipo che ne so, venire a trovare noi che più o meno non usciamo di casa, è sicuramente più sicuro che ricevere persone in ufficio. No, vabbè, noi usciamo, però comunque anche io ricevo gente in ufficio, sì, però il concetto è un altro, questo dice lei. Comunque io ho chiamato un cliente che ha una certa età, over 70, con la moglie che non sta neanche tanto bene, che qui sto affittando casa, l'ho chiamato per dire: oh, guarda, siamo aperti, siamo vivi. E c'era un casino, cioè questo, musica a palla, no, sai, perché sono venuti a trovarmi tutti i miei nipoti, e lì proprio si sentiva proprio... Allora guardi, le volevo dire, siamo chiusi tutto maggio, arrivederci. No, mi dispiace dove dire cose brutte, perché non è bello dire cose brutte, ma la gente vuole morire, c'è un cazzo da fare, dai, su. No, vabbè, ma no, poi non è che la gente vuole morire, la gente te vuole ammazzare, è diverso. In effetti c'è questa sottilissima differenza. Cosa peggiore ancora, non si preoccupa delle conseguenze. Perché le conseguenze non... A parte quelle di salute, comunque non li riguardano in qualche modo. Mi dispiace dirlo, però... No, il problema principale, ma è inutile che lo dica io, che sto cazzo di nemico, sto cazzo di coronavirus è una cosa invisibile, è una di quelle cose che fin quanto non ti abbecchi tu dici: ma perché ti capita proprio a me? Perché ti capita proprio a me? Perché cazzo, c'ho la tossicina, muori. Questo è il problema, cioè, a chi tocca non si ingrugna. Sì, finché bellissima. Questa la riutilizzerò. A chi tocca anche in grugna? Non fa parte del mio. Vabbè, perché è un detto romano. È romano. Sì, ci sta. Ma segno, ma scrivo, faccio. Ma scrivo, sì, esatto. Devi morire. Comunque, insomma, in sostanza, Alex, se ci sei ancora. Sì. Poi alla fine la percezione generale, ovviamente in Lombardia come in tutto il resto d'Italia, la stragrande maggioranza delle persone è comunque ligia alle disposizioni e sarà anche un pelino incazzata di questa situazione. Qual è la percezione generale lì? Allora, è difficile di descriverlo, perché proprio io sono uno di quelli che se ne è stato più coperto, più al chiuso. In ufficio, noi siamo in 7 nel nostro ufficio e abbiamo deciso di ricominciare veramente slow. Io farò il primo giorno, teoricamente abbiamo riiniziato da lunedì, però abbiamo deciso di farlo veniamo in ufficio solo se c'è qualcosa che non possiamo fare a casa. Io lo faccio lunedì, il mio primo giorno, perché c'è un software che non gira sul mio computer di casa, devo andare per forza lì. E, però con tutte le precauzioni del caso, eccetera, eccetera. Noi siamo comunque un'attività veramente iper piccolissima, però la stiamo seguendo bene, siamo abbastanza coscienziosi. Le autorità, dei vari un po' di sindaci che conosco, eccetera, eccetera, sono abbastanza incazzose, come dire, veramente. Solo che non ci sono anche meno strumenti per andare a prendere la gente e buttarla via, cioè, nel senso, effettivamente ci sono delle possibilità e uno può dire sì, però ero andato, sono andato con mio figlio a vedere i congiunti, eccetera, eccetera. Poi il fatto che ci fossero 20 motociclisti oggi pomeriggio mi ha un po' perplesso. Poi sì, effettivamente la moto è un mezzo di locomozione, non può andare, eccetera, eccetera. Il fatto è che sembra che è finito lo scazzo, dai, ricominciamo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. La mia sensazione è che se le cose stanno così, perlomeno in Lombardia, diranno: sapete che c'è? Noi rimaniamo chiusi per i negozi, almeno i ristoranti, eccetera, eccetera, a oltranza, perché effettivamente comunque siamo da soli noi in Lombardia, la metà della gente che schiatta, la metà della gente che, cioè, metà della roba sta tutta qui. Ed insomma, è una cosa che ci perplime. I medici sono abbastanza affaticati. Vedo mia suocera, l'ho vista per la prima volta 2 giorni fa. Sono andato a trovarle anche lì, distanze, cose, detergente, sanificatore per le mani, cioè, cose fatte bene. E proprio l'ho visto voi dire basta, cioè dovete stare a casa, cioè, mi ha fatto stampare un cartellone da mettere davanti al suo studio, dice: non sono una vostra congiunta, telefonatemi, un cagato il cazzo, cioè, ovviamente messo meno un po' più ridicolo, però l'idea era quella, cioè, comunque la percezione che io vedo è che sì, ma a me tanto riguarda qualcun altro, riguarda i vecchi, anzi meglio che i vecchi muoiano, così ci sono più soldi per la pensione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte ci sono quelli che l'Italia deve riaprire, dobbiamo lavorare altrimenti falliamo tutti, sai, quelli che proprio incazzosi, incazzati, dobbiamo rimanere aperti, aprite tutto, tanto muoiono solo i vecchi. E, cioè, è veramente una cosa devo dire che mentre all'inizio Conte l'aveva gestita bene, verso la fine secondo me avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso, probabilmente non aveva gli strumenti per farlo, cioè comunque sentiva le pressioni politiche da una parte e dall'altra, eccetera, eccetera, eccetera, e è arrivato al limite del compromesso con questa, tra virgolette, fase 2. Il problema è che non bastasse l'opposizione cieca e assolutamente, come dire, finalizzante solo alla propria linea senza scrupoli. Anche dentro la maggioranza non c'è un'unità di visione, quindi è chiaro che lui poi alla fine deve cercare un po' di dare un colpo al cerchio e non alla botte. Anzi, troppo bene ci sono riusciti finora, insomma, mi dirai. Poi la Lombardia continua ad essere, diciamo, come dire, una questione nella questione, perché ha dei numeri che da soli, come dici tu, sono la metà dell'epidemia, e ci si aspetterebbe più senso di responsabilità dai governatori locali. Invece il peso politico dell'economia lombarda chiaramente influisce molto anche poi sull'atteggiamento e sull'approccio di riapertura che si vuole avere. Sì, io devo dire, continuo a dire, è vera sta cosa che l'economia lombarda tira avanti tutta l'Italia? Sì, no, non lo so, cioè, sono sempre più scettico di questa cosa qua. Cioè, una volta ci credevo, non dico fideisticamente, però mi sembrava di sì. Adesso non lo so, ripeto, effettivamente quello che ho vissuto io, ma anche altre persone, però ovviamente il campione statistico è una pulce che scoreggia ed è un particella della scoreggia, è che un sacco di gente, abbiamo lavorato da casa, abbiamo lavorato allo stesso modo, non avevamo così tanta roba da fare, eccetera, eccetera, c'è un sacco di montare la panna. Avete presente quelli che fanno riunioni tutto il giorno? Ecco, adesso fanno le tele riunioni tutto il giorno, e alla fine è un montare la panna fino a che punto il latte si caglia. Io sono un po', ho passato la settimana con grande ansia, devo dire la verità, l'ansia del ricominciamo. Però quello che ho visto è, sì, vabbè, cosa stiamo ricominciando a fare? Cioè, stiamo correndo ad aprire dei negozi che però rimangono vuoti, come ha detto anche Marco. Eh sì, purtroppo sì. È un po' il discorso di riaprire le fabbrichette di automobili e poi queste automobili non se le comprerà nessuno, insomma, per ingigantire un po' il fenomeno. Alex, io so che tu avevi, diciamo, il tempo. Eppure ti posso presentare un paradosso? Dimmi tu. Presentare un paradosso? Io seguo alcuni gruppi perché sapete che poi adesso la nuova frontiera di quelli che vendono cose è quella di andare su YouTube, no? Tipo la nuova Nord Affari, oppure Camper House di Rimini, okay, no, sì. Tutte società che vendono prevalentemente camper, no? che io seguo, perché voi sapete insomma che c'è sta fissa insomma del fatto del camper. Eppure paradossalmente, sì, il bar camper, paradossalmente anche grazie ai gruppi Telegram creati, grazie anche ai canali di YouTube che comunque gli hanno fatto un incremento anche di popolarità a tutte queste aziende, no? Che sono state comunque hanno comunque catalizzato molti appassionati. La vendita da quel punto di vista non si è fermata. È vero che comprare un camper è più lungo e laborioso di comprare una macchina, perché comunque quando tu compri magari c'è un tempo d'attesa della produzione o roba del genere, quindi magari oggi stanno a consegnare cose che magari sono state ordinate 6 mesi fa, no? Però insomma il fatto che ci sia stata una costante organizzazione da questo punto di vista mi fa pensare che su alcuni settori è come se non fosse cambiato niente, se non il discorso della consegna, che questi addirittura si organizzavano, dicevano ragazzi io devo portare 3 camper nel spazio, se ci organizziamo insomma troviamo il modo, no? Nel senso di condividere le spese o fare unificare praticamente. Simo, se già hai i pezzi, i componenti per farle le cose, se già hai il prodotto importato magari qui da mesi e ce l'hai soltanto da rivenderlo, ma se devi proprio assemblarlo e costruirlo cominciano a essere cazzi quando non ma arriva. Anche lì stavo vedendo che prezzi sono stati 3 settimane di stop, ma poi le produzioni sono, perché comunque le produzioni sono quasi tutte in Germania, cioè capito qual è il discorso, anche i camper italiani, cioè quindi i marchi italiani. Io non sto parlando solo di camper, attenzione. No, no, vabbè, io però in questo caso parlavo di questa cosa perché mi faceva un po' specie il fatto che questo tipo di settore in qualche maniera, perché comunque sì, ok, io il camper l'ho ordinato 6 mesi fa, però se tu mi dici guarda il camper è pronto, mo te lo porto in piena pandemia, io ti posso dire sì, però magari io adesso magari non sono nelle condizioni di comprarlo, no? Però è vero pure che è un settore un po' particolare quello, cioè nel senso che se permette diciamo che è un acquisto organizzato, non è un acquisto molto emotivo, probabilmente sì, chi sì, è partito probabilmente per quel tipo di acquisto e si è debitamente organizzato, insomma. Poi certo vai a sapere, insomma, però una volta che hai ottenuto il finanziamento, che comunque hai accantonato la cifra, insomma dubito che cedi per un paio di mesi di lockdown, ecco, insomma. Comunque per il resto, insomma, ragazzi, dobbiamo, vi posso dare due segnali strani che mi sono arrivati proprio tra l'altro in ambito automotive. Lo sai che lo stavo per dire anch'io. In ambito automotive io ho visto 2 cose molto strane. Cioè la prima è che io sto in 2 gruppi di acquisto Toyota in cui sono stato infilato da un amico, da un ex collega, Michele, quando io gli ho detto che volevo prendere una o un'ibrida o una plug-in, e lui, che di macchine ne capisce molto più di me, mi ha introdotto in questi gruppi di acquisto che su Toyota, che pare che siano quelli con la tecnologia migliore in quell'ambito, riescono a ottenere degli sconti, insomma, sostanziali durante tutto il periodo. Scusa Buccio, salutiamo Ale che deve esatto andare via. Sì, scusate. Vai, ciao, Alex. Ragazzi, scusate la cosa, no, una continuazione, ci vediamo poi. Ciao, no, Ale. Ciao Alex, grazie ancora. Vai. Infatti guardate, è l'orario dell'aperitivo. Io non lo volevo dire, ragazzi. Sono 18:30. Io mi collego con le webcam del sui navigli e controllo, esatto. Tanto la sua pelata è indistinguibile. Quindi mettiti un cappello se non vuoi farti riconoscere. Stavo dicendo, io per tutto il periodo del lockdown, il traffico sui gruppi di Telegram, dei gruppi d'acquisto Toyota, sostanzialmente l'ho visto invariato. Cioè ci sono stati ritardi nelle consegne, ma comunque io per tutto il periodo ho visto gente che si inseriva e diceva ho puntato questa ibrida, in quale zona d'Italia ne state comprando 20 da un unico concessionario per ottenere lo scopo. Sì, la cosa è andata avanti, vabbè, ma questo perché sì, però magari ripeto, ma quando si fanno questi gruppi d'acquisto, questi come dire, queste nicchie commerciali molto specifiche, è normale che sono meccanismi in scala così piccola che poi non fanno statistica. Ma la cosa che in realtà mi ha fatto prudere il naso, io ho un'esperienza lavorativa in una grande ditta di logistica del meridione, ho ancora i contatti con tutti i miei ex colleghi. Una delle parti che curano è la consegna dei pneumatici a Melfi, dove fanno le Jeep. Okay. Sono 2 settimane che hanno ripreso. Vabbè, hanno ricominciato gli approvvigionamenti anche in ottica, no, diciamo, di ripertura delle linee. Perché sì. No, ma è l'ultima parte che montano, perché da questa voce che sta girando, che ripeto, base complottismo, quindi probabilmente tra due ore sta cosa in qualche modo può essere smentita, è che una delle componenti del rilancio economico è quello di fare un nuovo fortissimo incentivo alla rottamazione per chi vuole cambiare macchina e passare ai combustibili green, quindi certo, metano oppure ibrido elettrico. Ma io me l'aspetto metano, che adesso la Fiat dovrà reclamare aiuti di Stato, no? Chiamiamoli così, anche se non sì, saranno di Stato. Però. Tanto per cambiare. Esatto, adesso dall'Olanda, però chiaramente che fai? La Fiat ha dato lo stipendio per un mese durante il lockdown ai propri impiegati, malgrado non producessero, adesso vorranno 2-3 anni di aiuti sociali, no? Mi sembra giusto, perché le proporzioni sono queste. Io ho la sensazione che la Fiat, un po' tutti i produttori di automobili, io dico la Fiat perché fondamentalmente è il monopolista del mercato della produzione italiana, tutti i marchi italiani sono Fiat, quindi insomma tutte le macchine prodotte in Italia sono prodotte da loro, per quello uso il loro nome. Immagino che produrranno tanti veicoli a prescindere da quella che è la domanda reale, e lo faranno perché gli obiettivi che loro si prefissano per la questione dividendi, la questione borsistica eccetera, non è quasi mai, che io sappia, il venduto, ma il prodotto. Poi il problema sarà smaltire capannoni pieni di macchine che in qualche modo dovranno essere svendute, ma no, senza perderci, e quindi ecco che probabilmente, come dite voi, arriveranno queste offerte con gli aiuti dello Stato. Poi bisognerà vedere su quali tecnologie, perché qual è il problema nel problema? Che se mi devo comprare una macchina di nuova generazione con determinati prerequisiti oggi, cerco la giapponese, non cerco l'italiana, perché so perfettamente che in questo segmento gli italiani non sono ancora pronti. Hanno tirato fuori... Non ce l'hanno proprio i modelli in altro poco. Hanno tirato fuori dei modelli di Fretta e Furia, ma non mi azzarderei a comprare una 500 ibrida in questo momento. A parte le mild hybrid, che voglio dire, sono ibride solo per libretto di circolazione, quindi alla fine... diciamo, stai comprando una macchina a tutti gli effetti a combustibile, quindi puoi anche rischiare poco. Però una ibrida vera, diciamo una di quelle, per intenderci, stile Toyota, stile Nissan, in Italia non c'è. Però guarda, andando un attimo controcorrente, se questa cosa serve a svecchiare il parco macchine italiano e introdurre un'ampia mole di veicoli più verdi, magari anche alla fine diventa anche un investimento. Però senti, io sono un po' cinico su questa cosa, ti dico la verità. Io ho una macchina di 10 anni che tra l'altro ho dovuto far rimettere a posto di carrozzeria poco tempo fa, perché non so se ve lo ricordate, una scheggia di una tegola mi ha bucato il tetto. Ma bucato. Buon Natale, Walter. L'asteroide. Esatto, è il famoso sframmento di asteroide che ha preso solo la mia macchinina. Però sinceramente io mi sono sempre domandato se oggi come oggi avrebbe senso mollare una macchina relativamente semplice da un punto di vista tecnologico come la mia, che è una Ford Fiesta di 10 anni fa, per prenderne una tecnologicamente molto evoluta, molto bella, piena di infotainment come piace a me, piena, diciamo, di agevolazioni, perché per esempio prendendola anche solo mild hybrid non pagherei nel Lazio il bollo per 3 anni e tante cose belle, però con il rischio poi di incappare in tecnologie relativamente nuove, relativamente, come dire, con degli incognite che poi magari nel medio termine, oltre a pagare la rata della macchina, mi tocca anche avere degli imprevisti. Io adesso ho una macchina che non vale quasi niente, però ha la sua affidabilità più o meno, come dire, garantita, e per l'uso che ne devo fare mi fa stare tranquillo. Che faccio? Rischio? Io ce n'ho una a metano, per dirti, quindi da un punto di vista ecologico sto coperto, e c'ho ancora la Puglia per 5 anni. Se prendi elettrico o metano non ti fa pagare il bollo, c'ho ancora 2 anni di bollo. Se la dovessi cambiare, perché oggettivamente dopo aver guidato un'auto elettrica aziendale, facciamo l'aperitivo tanto, scusate, sì fate pure, mi sono reso conto che mi dà fastidio il rumore del motore mentre guido, invece con l'elettrico non lo sento. Vabbè, ma pure te sei strano, però. No, però dopo averla provata, cambio... Io ribadisco, per me full elettrico la prossima. Sì, no, ma pure già io. Già questa voleva essere, però ancora non ci siamo. Io ho puntato un modello Toyota che c'ha il plug-in, però è ibrida. Quindi ti fa, cioè, i 350 km di autonomia a batteria oppure vai a benzina. E tra l'altro sto facendo questa scelta solo perché in Puglia la distribuzione delle colonnine non è ancora capillare. Io vi posso dire, c'è un ma anche da noi pesante, non ti credere. Ma c'è un compaesano, letteralmente, cioè un signore di Putignano che incontravo spesso al bar, mo sono 2 mesi che non ci vediamo, che ha fatto il colpo di testa perché ha avuto un risarcimento molto grosso, ha comprato una Tesla, è contentissimo. Però la può caricare a casa sua dove c'è il Tesla. Grazie al cazzo. Grazie. Se hai lo stallo privato dove puoi, posizionare. No, ma lui dice: io so che ho 400 km di autonomia, poi devo tornare a casa. Cioè, perché sa che non la può caricare. E allora, se per questo ce n'ha 200. Ce n'ha 200. Sì, 200. Vedi, può fare un raggio di 200 km. È molto felice della macchina. Però in scusa, la rete di supercharger Tesla è capillare, discretamente capillare anche in Italia. Il problema è che te devi poter permettere almeno 45-50 mila euro di Tesla per ragionare in quei termini. No, lui è, non ho visto la contesta di questa persona, ha avuto un grosso risarcimento, gli piacciono molto le auto elettriche e se l'è comprata. No, vabbè, ripeto, però, potessi anche io, però mi ha spiegato che lui riesce ad arrivare a Lecce, sa dove stanno le colonnine di ricarica, quindi si è organizzato. Però lui dice: io per esempio avrei paura ad arrivare, per dire, a Roma, perché se una colonnina tra quelle che ho nell'applicazione che mi segnala dove posso ricaricare è in manutenzione e non ce n'è un'altra, io resto lì. Ma io credo che su queste cose Tesla sia attentissima, quindi mi fiderei di altri produttori, di altri service che fanno soltanto quella che è l'elemento di erogazione di energia, senza fare nomi, ma la rete di caricatori collegata al brand che ti vende la macchina sicuramente deve funzionare bene, perché ne va della loro faccia. E poi finora mi sembra che Tesla, salvo qualche incidente con l'autopilot, insomma, abbia sempre dato tra l'altro in Italia non possono arrivare con l'autopilot, perché è stata la prima cosa che gli ho chiesto. No, in Europa in generale credo non possono. Mi fece vedere il documento, l'email in cui gli avevano risposto l'autopilot no, quando l'aveva ordinato. Sì, ma solo in America posso solo essere così fuori. In America. Domanda, visto che ci siamo, abbiamo nominato Tesla, nominiamo anche Elon Musk. Ma come cazzo si chiama il sesto figlio? Nominiamo il figlio. Vorrei, ma non lo so pronunciare. Radice quadrata per pi greco. Credo sia Aieie. Credo si legga Aieie Brazo. Bellissimo quel video che ha fatto vedere anche ieri, propaganda live, il figlio che piange, il rumore del router, il modem che si chiama quella è la... Vabbè, c'è un articolo di Wired in cui c'è spiegato il significato del nome. Però sì, pare. No, ma il significato l'ho capito, nei limiti di uno che con certe cose pronuncia? Ma come si pronuncia? Comunque, scopro oggi che Nicolas Cage ha dato al figlio il nome che avessi potuto decidere in autonomia, avrei dato io al mio. Ha chiamato il figlio Kal-El. No. Posso arrivare a Zelda di Robin Williams? Posso arrivare anche all'attimo. Mia figlia? Posso arrivare anche a Kate? Ah, è vero, pensa che lo sapevo, me l'avevi anche detto. Però, Kal-El, dai, c'è mia moglie che mi sta guardando con un'aria di disapprovazione. Come io non ne voglio sapere. Ciao, Claire, salutamela. Saluti. Io, mio figlio, lo vorrei chiamare Kal-El. Kal-El. Si è sentito vagamente qualcosa di Michele in lontananza. Vieni a dire al microfono. Microfono spento perché sta mangiando mentre che... Chomp, sì. No, no, niente, lasciate la perdere. Non capisce che c'ha il microfono chiuso perché sta mangiando. Capito? Però io non vi ricorderò mai come diceva, non so, Michela forse lo conosce, il mio caro amico Riccardo Troia, quando dice: avrò una figlia, come la chiamerò? Anche perché fiero di ricordare, e qui Carmine Puccio ci può assolutamente confortare, che essendo Troia un cognome di origini di quelle parti, non è Troia, è Troia, è proprio Troia. Troia. Già. C'è anche un paese che si chiama Troia, vicino a Foggia. Sì, sta in Grecia, no? È una città antica. Dalle mie parti è diffuso Zoccola come cognome, però pronunciato rigorosamente Zoccola, Zoccola. Certo, per cercare di creare il dualismo. Basta un dittongo alle volte a salvarti, no? Ah sì. Vabbè, comunque ragazzi, a proposito di origine di Lobby, ma a sto punto lo chiedo a te, Lobby, ma di che colore sono gli occhiali nuovi di Salvini? Colore ti devo dire, allora ti dico, guarda, ci sono diverse, zero, ci sono diverse. Aspetta, ma sei Lobby, fai parlare a Lobby. 057A84. Questo è il codice del il pantone. Sì, esatto. Sì. Dice Pantone. Sì, no, perché in realtà c'erano diverse, cioè era il marrone corteccia di albero invernale, oppure c'era quel pannolino color, ma De Luca ha trovato il vero colore Pantone che si ovviamente accomuna alla montatura di l'esadecimale in HTML, è proprio quello. Esatto. Se, ragazzi, io da persona che di pannolini ai neonati ne deve cambiare una media di 3-4 al giorno, vi posso garantire che è esattamente quello lì. È vero. È proprio, l'ho guardato, è quello. E la cosa bella è che lui ha risposto anche Salvini, ha detto se sono presbite perché deve essere un problema. Sì, però la critica no, il problema non è la lente, la montatura, la montatura. Sì, sì, ma poi ragazzi c'è stato un momento che col lupetto, con questi occhiali eccetera, ha provato come quasi a darsi una specie di tono da intellettualoide di pseudo sinistra degli anni 70 o lo... Sì, ma quando doveva fare qui campagna qui in Emilia Romagna. No, no, no, di recente, dico, quando si è messo anche gli occhiali in Emilia Romagna, vabbè, no comment. Però nelle ultime settimane... sempre che Salvini viene da un'organizzazione comunista, quindi... Sì, vabbè, sì. Ma... Secondo me perché lì qualcuno gli aveva dato retta 5 minuti e lui ci ha provato, ma insomma, dopo quel momento io a Salvini non... cioè, come dire, non gli vedo nessuno spunto che non sia di schifosa estrema, cioè, di, capito, insomma, quell'altra parte lì, ecco, non lo volevo dire brutalmente, però, insomma, boh, questa sua genesi Salvini non è fascista, proprio. Salvini no, è sciacallista. Sì, okay. la cosa che dico anche io, se per paradosso tirerebbe di più l'antifascismo, la libertà, cioè l'uguaglianza di tutti, lui, cioè, sarebbe, cioè, la sua campagna elettorale verterebbe con quei temi, secondo la mia modestissima idea. Dipende sempre quello non che lo so dove tira il tempo. Perché lui cerca il buco, ma non il quello buco. Che vorremmo noi, è il buco di votanti, cioè dove quella è la zona di elettorato che non è ben rappresentata, che posso sciacallare, lui ci va. Il ghetto, ma manco, cioè, il ghetto, sta, sì. Esatto, fa quello che gli americani chiamano narrow casting, come Fox, parla soltanto a un gruppo di persone, a quello lì, tutto il resto non gli interessa, cioè non cerca di allargare la base, non fa un discorso di partito di massa. In questo momento è fortunato lui, perché in Italia abbiamo un cospicuo quantitativo di persone che sono alimentate a cazzate, che leggono su Facebook, su Twitter. Si chiamano analfabeti funzionali. Guarda, questa è la tecnica che non necessariamente. Scusate, ragazzi, questa è la tecnica che i commerciali d'alto livello chiamano fare carne de porco. Sì, bravo. Esatto. Però al di là di questo, il modo educato. Esatto. Al di là di questo, a me sembra che funzioni solo sul breve, relativamente medio termine. Mi sembra che un po' più a lungo. Ma lui che gli frega, essere mica vuole costanti, vivere per 100 no, anni. No, no, no, no, un medio termine è sempre nell'arco, diciamo, di meno di una legislatura, perché se vedete a medio termine, come dire, la cadenza un po' più settorializzata, un po' più costante della Meloni la sta facendo, come dire, sta pagando più di quella di Salvini. Sono partiti un po' insieme. La Meloni è partita col 6%, Salvini è partito col 10%, Salvini si è trovato al 32%, adesso sta scendendo drasticamente. La Meloni zitta zitta continua a salire. E tra un po' sorpassa. Ma quelli sono la Meloni è al 30%, scusa, che stai a dire? Speriamo di no, tra l'altro. No, i numeri dicono che Salvini ha... con la Meloni al 30%. No, no, i numeri, ragazzi, dicono che lui ci ha avuto una lieve flessione, ma insomma niente di beh, insomma, sta a due punti dal PD, nel senso adesso sta 24-26. Stiamo sempre a parlare di sondaggi e sondaggini, però. Sì, eh. Sì, infatti. Stiamo sempre a parlare di sondaggini. Comunque sì, vabbè, poi insomma, quando si andrà a votare, vabbè, veramente è sempre indicativo, cioè sono sempre forse più affidabile delle stime dei report giornalieri sul Covid, forse, quindi. Vabbè, comunque, beh, ragazzi, cioè, se ci fate caso, alla fine, cioè, noi abbiamo dei politici con delle date di scadenza estremamente ravvicinate, cioè gente che contava preferibilmente entro, cioè gente che campava 40 anni sulla cresta dell'onda, tipo Andreotti, cioè, non ce ne abbiamo più. Vabbè, da ma è cambiata la società, figurate quanto è cambiata la politica, no? Quelli erano politici, cioè, non c'è grazie più a questo benedetto discorso... internet che tutti abbiamo voluto, che bello in realtà. Non c'è più un discorso di fare una programmazione medio-lungo termine, no, una legislatura, medio-lungo termine dai 5 ai 50 anni, non frega più niente a nessuno, cioè si campa di voto in voto. Cioè, no, di elezione in elezione. È di voto in voto. Locale, che mediamente ormai è una volta all'anno, anche meno. Comunque, ragazzi, voi riuscite a immaginarvi la rabbia e il bruciore di stomaco della Betty Morisi, che magari ci ha impiegato tanto tempo a trovare gli occhiali adatti da mettergli in faccia al protetto, che l'ha istruito, che si è scelto la montatura e il tipo di occhiali per renderlo assicurante, lo manda in televisione, arriva De Luca, pannolino di Bimbo, tre parole e glielo ha annullato, perché una volta che l'hai sentita quella frase non te la levi più dalla testa, perché effettivamente è azzeccata. Vabbè, ma ragazzi, ma lì il problema è alla base, nel senso che hanno scelto malissimo, se sono dati a zappa sui piedi da soli. Cioè, il problema è che quella montatura è oscena, non serviva a De Luca per dire che occhiali de merda. Poi lui l'ha detto in maniera assolutamente, come dire, perfetta. Eppure a me non me lo leva dalla testa che è tutto studiato, cioè. Sì, sì, però stavolta è studiato male, sì. È chiaro che è tutto studiato, ma questa volta hanno fallito. Evidence based proprio, secondo me. Secondo me vanno a vedere, vabbè, i paper scientifici. Lobby penso che sappia perfettamente come si conclude il nome Valente. Clemente, scusatemi. La storia di Clemente. Ma chi è sto Clemente? Povero Salvini. Ormai il problema è che ha così bisogno di dire qualunque cosa ogni giorno le sue dirette Facebook per non perdere, diciamo, terreno, che ormai, come dire, presta il fianco. Ovviamente tutta una serie di osservatori pronti ad evidenziare le debacle ci sono, e quindi ormai praticamente sì, è autolesionismo quasi quotidiano. Però c'è sempre una base. Forse non lo sapevi. Vai, parentesi, forse non lo sapevi. Chi Puccio, deve parlare? Ma... Chi deve parlare? Io, Lobby. Io parlo io, vaffanculo. Vai, Lobby, vai, vai. Lo sapevi, Puccio, ma comunque ho scoperto che Clemente è il cugino di Peppe Brescia. Chiudo qua. Sì, è Peppe Brescia. Ah. Che stamane chi stupisce, dai, perché dai, no. T'ha fregato. Ragazzi, volevo leggere una dichiarazione che è stata riportata di Silvia Romano, perché praticamente pochi minuti dopo che Conte ha annunciato la liberazione, lei ha potuto fare questa dichiarazione. Esatto, non è vero. No, ha detto: sono stata forte e ho resistito, sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia, e dovrebbe rientrare in Italia domani. Ora mi sa che non gli hanno spiegato la situazione. Ma chi lo fa fare? Ma stai, cioè, stai come bene Jared lì. Leto? Come Jared Leto in deserto? Vabbè, chi devono spiegare? Walter, a questo al Covid gli fa una pippa. Cioè, nel senso, no, vabbè, stiamo cercando di sdrammatizzare, perché siamo GM. È chiaro che la mia voleva essere una battuta. Insomma, dai, non volevo essere serio. A Carmine, scusami se sono fatto bene troppo violentemente. No, anche perché, scusate, cioè, l'unica idea che mi era venuta è che a Salvini gli manca solo uno che in chat gli scrive: oh, sai chi ti saluta un casino? E lui risponde: chi? Cioè, quello è l'unica cosa peggio che gli può capitare. No, ma anche non so chi l'ha postato, chi, dov'è che l'ho visto? Ah, sì, quella di Cristina D'Avena. D'Avena. Sì, sì, Cristina D'Avena. E saluto Thomas. Rubato. Ragazzi, fatemi salutare. A proposito, ci hanno raggiunto in chat alcuni minuti fa, ma perdonate, ci eravamo presi al discorso. Al 9000 Stefano e Roberto Tomaiolo, bentrovati a tutti ragazzi. Bentrovati ragazzi. Come stanno i vostri congiunti preferiti? Scrivetecelo in chat. Ma soprattutto, vi siete congiunti con i vostri congiunti? Con le vostre congiunte o i vostri ragazzi congiunti. Non so se conoscete il gruppo. Il gruppo credo che sia in particolar modo su Facebook, che si chiama Welcome to Favelas, che insomma sì, pubblica una serie. Oggi, a proposito di congiungimenti sugli scogli, ce n'è uno che insomma non so se posso raccontare. Però insomma ci sono due che si sono sicuramente congiunti, ecco, sugli scogli. Dov'è sì, questo? Non lo so dove, però. No, perché se provi a farlo litorale di Bari muori probabilmente. Sì, so che De Caro aveva mandato i carabinieri, no, ma questi, cioè, giorni. A parte quello, ma cioè provare ad accoppiarti sugli scogli a Bari muori. Ah, vabbè, cioè, certo, immagino sia un po'. Sì, a Salerno sono più comodi. Parlo, me lo dice un amico, me l'ha detto un amico. Ha detto un amico. Chiedo per un amico, gli scogli, esatto, a Salerno sono più comodi. Sì, al pennello, al zona che si muove pennello, sia. Vabbè. Comunque in realtà per gli scogli sono più per gli scogli, ragazzi, sono quelle barriere artificiali che ci sono su tipo su un molo, ecco, poi insomma c'era un po' e un po'. Poi troverò il modo di girarvelo, però se andate sul gruppo Welcome to Favelas anche su WhatsApp, su Telegram c'è, lo potete vedere, insomma. Ragazzi, io vi propongo 2 minuti di pausa per mettere anche un brano, che è il brano che stiamo lanciando questa settimana e che credo che oggi, insomma, ci darà il zitto. Niente, ha smesso adesso. Vaffanculo. Vai, prego, continua. Dicevo, il brano a cui daremo commiato oggi dopo le ultime dirette. Ricordiamo che dopo di noi oggi c'è un'altra diretta. Simone, ce la vuoi introdurre? Questa sera alle 23:30 Runtime de Notte. Senti de come notte. Se Bertallotte. De Notte. Lo sentite? Poco. Sì, sì. No, ogni tanto si sente, poi dopo quando io dico lo sentite la smette, inibisce. Fanno tutti così. Gamera che durante questi giorni niente, non vive se non appiccicata praticamente. Beh, no, dai, ancora ci ho stampato nella mente l'immagine di quando ti sei svegliata tu, Michela, che te la sei trovata sotto la lampada. Lei è inquietantissima. Madonna, sei inquietante. Ah, sì. Alle volte, ragazzi, il mio gatto. Allora, io ho un gatto nero, quindi alle volte non lo vedi, ma senti che l'hai acciaccato. Mi capita delle volte, ragazzi, vi giuro il panico. Perché la notte, nel dormiveglia, vado al bagno, accendo la luce, giro gli occhi e sul mobiletto che è proprio di fronte al water, mi becco il gatto in modalità statua, in modalità che ti guarda, capito? E tu dici, ma lo fanno. A me guardano due. La Gamera si mette sul comodino di Michela e Gozzi si mette sul comodino mio. Io infatti ogni tanto giro la testa dal cuscino, apro l'occhio e vedo sto cazzo di gatto che mi sta praticamente così davanti e mi guarda. Ma tipo starà le ore lì così, cioè inquietantissimo. Invece sta facendo avanti, aspetta che muori. Esatto. Per poterti mangiare, cioè, che è così. Io invece credo che i nostri gatti stiano odiando il fatto che noi stiamo chiusi in casa. Cioè ormai ci evitano, vanno per le loro case. Sì, esatto. Va bene stare a casa, ma tutto sto tempo, ma che vuoi? Vai. Fase 2. Esci. Vabbè, ragazzi, allora dicevamo, chi vuole avere l'onore di dire due parole sul brano che si intitola Generazione Erasmus, che è di Benzabroi? Francesco, introducicelo che poi lo lancio. Va bene. I Benzabroi. Benzabroi, band di Reggio Emilia, sono punk, sono incazzati e basta. Vai con Generazione Erasmus. Viviamo nel bel paese, senza opportunità, ma potremo far carriera con mi piace su Instagram. L'industria al collasso, evasione alle stelle, e a noi ci frega un cazzo, solo di attore modelle. L'Europa è un inganno, di interessi finanziari, occupati da 70 anni dagli americani. Ma quale libertà? Vogliamo il nuovo iPhone. E la realtà fa schifo, meglio cacciare i Pokémon. Ma noi siamo ragazzi seri, pensiamo al calcio e la figa. Anche stanotte zero problemi, un altro cocktail e un'altra riga. Generazione Erasmus, generazione Bataclan, generazione Facebook, come ci definiranno? Generazione selfie, quelli del Jobs Act. Generazione Chiusi, generazione Millennials. Paese senza creatività, nel pattume culturale, nella pubblicità, creati con lo stampo come tanti manichini, con lo spritz in mano, barba lunga e risvoltini. In precariato fisso o in disoccupazione, basta non perdersi il sabato a Riccione. Mangiamo merda tanto, venerdì arriverà, e se ci incazziamo rispondiamo con hashtag. Ma noi siamo ragazzi seri, pensiamo al calcio e alla figa. Anche stanotte zero problemi, un'altra cocktail e un'altra riga. Generazione Erasmus, generazione Bataclan, generazione Facebook, come ci definiranno? Generazione selfie, quelli del Jobs Act. Generazione va che stacco che si fa, come dire, proprio così. Allora, mi sento un attimo in dovere di, come dire, prendere il messaggio di Roberto Tomaiolo che dice se la notte vai al bagno è prostata, e spiegargli che in realtà, chi lo sa, spero di no. Non necessariamente. Devo dire che io bevo mediamente 3 litri d'acqua estremamente leggera, quella residuo fisso zero. E quindi io non è solo la notte, io cioè il mio rapporto con il bagno è praticamente biorario, ecco. Quindi vabbè, insomma, lasciamo perdere. E ragazzi, insomma, controllate pure la pressione ogni tanto. Come dici, Simone? Pappagallo. Magari controllate pure la pressione ogni tanto. Sì, potrebbe essere un tantinello alta, non lo nascondo. Vabbè, insomma, ragazzi, dobbiamo anche tornare un po' a quelle, come dire, Marco e Simone lo sanno bene, perché in OGM abbiamo tanti risvolti sociali, e effettivamente uno di questi è che ogni tanto dobbiamo fare dei coccodrilli. Mi dispiace che non abbiamo pronto l'asset appropriato, perché era un po' che non lo usavamo, però dobbiamo dare una brutta notizia, perché è morto uno dei, diciamo, di quelli che erano i simboli più trasgressivi del rock and roll di una certa epoca, è morto alla veneranda età di 87 anni, Little Richards, senza S, Little Richard. È vero. Dicono il fondatore del rock and roll. Infatti, come dice Marco, ma non era morto. Non so se, cioè, si gioca un po' forse con Elvis Presley questo ruolo di creatore, o comunque come re, no, come imperatore del rock, non lo so. Però era, diciamo, attivissimo negli anni 50-60, era anche molto più trasgressivo. Elton John era quello un po' più macio, sì, Elton John che c'entra, non lo so perché ho detto Elton John macio, cioè, no, infatti volevo dire oddio mio, Elvis Presley probabilmente è stato quello un pochino più macio, lui era quello un pochino più trasgressivo, non a caso era anche diciamo dichiaratamente omosessuale, insomma se l'è fatta la sua bella vita, ecco. E quindi, insomma, dobbiamo riportare questa notizia. Diciamo che Presley è stato una sorta di icona del rock and roll, però non è che è stato, cioè, nel senso, l'unico, o comunque, cioè, nel senso, alla fine c'era tanta roba prima di lui, insomma. Forse, ecco, la persona più famosa, la gente che magari non conosce il rock and roll, però tu gli dici Elvis Presley e ti dicono di sì. Sì, è un po' quello commerciale, la situazione. Tu dici Little Richards, la gente dice chi è? E poi però fai partire Tutti Frulli e la gente, ah, conosco. E quello, il problema è associare le cose. No, e ti dicono, ah, Elvis Presley. Mamma te, giusto? Sì. Sì. Vabbè, comunque. Gualdi, ti sento tanto tanto triste e contrito. Per favore, dici qualcosa. Spiegaci questa tua prima settimana di fase 2. Più alla finestra. Gualdi, ieri ha fatto il compleanno, comunque. Oh, cavolo, è vero! È 47, vero. Gualdi, 46, 49. Quindi oggi non è più il compleanno di Gualdi. Quindi era solo ieri. No, oggi era solo ieri. Non è aspettare un altro anno, niente. Per festeggiare, chissà se ci sarà ancora un anno. No, ragazzi, noi o il baratro. Tu e Michela lo sapete. Quando la situazione torna nei ranghi, voi ci dovete offrire la qualunque. Michela deve fare il mega party, fosse pure tra qualche mese, ma lo deve fare. Facciamo un COVID party, vabbè, ragazzi. Ormai lo... C'è un'idea? Oh. Facciamo un COVID party. Come negli Stati Uniti? Non ci ha mai pensato a nessuno. Come negli Stati Uniti? Già la stanno facendo? No. Sì. Ma sì. No, vabbè, un po' avere un'idea originale che subito te la fregano. Ma perché ci sono le antenne 5G che ci rubano le idee dal cervello senza neanche che le pronunciamo. Quindi sono americani che ci rubano le idee. A proposito, oggi io sono un ignorante in informatica rispetto a voi. Comunque stavo trovando l'istruzione per cambiare il nome alla rete di casa. La voglio chiamare. Certo, è giusto. Solo che, visto che sono un ignorante rispetto a voi, stavo un pochino scancherando. Ma magari dopo mi aiuta. Ma la puoi comprare la verdura? Cosa? La puoi comprare la verdura? Dipende. Perché sei ignorante di natura, io non credo. Devi comprare la scarola, la verza e le cime di rapa. Cime di rapa. Vabbè, comunque. Vabbè, io e Michela vi salutiamo, ragazzi. Perché poi ci apprestiamo, che questa sera alle 23:30, vi ricordo, c'è Runtime di notte. E domani alle 17 c'è Mono, Michela De Paola con la sua canzone d'amore. No, stavolta no. Dacci l'anteprima, Michi. Domani qual è il tema della puntata? Non c'è tema. No, le domeniche sono un po' a tema libero, e ovviamente freestyle. No. Sì, ci sarà molto rap. anche se non moltissimo, però ci sono piccole, e c'è un omaggio a Di Tutto un Podcast, a, a qualcosa che, vabbè, non so se Michele ci sta ascoltando, Shuren rabbrividirà, ma sicuramente ricorderà, a una canzone che ho passato qualche anno fa su Di Tutto un Podcast, che è il primo podcast dove, dove sono apparsa come speaker. E come speaker, come autrice era, no? Era una puntata sul nucleare che avevamo fatto. Ah, bello, bello. E avevamo intervistato un luminare, una cosa proprio. Però sono andate tutte fottute. Professor Basosi. Sì. E sono andate tutte queste puntate. Bazzuso, professor Bazinga. Va bene, grazie ragazzi, ci grazie, vediamo stasera. Mi raccomando. Più tardi, insomma, per chi ci sarà, ricordiamolo, dalle 23:30, giusto? Sì, sì, sì. Perfetto, runtime de notte. Ciao belli. Ciao. E insomma, noi rimaniamo qua. Marco, stavamo raccontando questa storia che è verissima, purtroppo. Gli americani ci hanno rubato st'idea se stanno a fare i COVID party. Cioè, vabbè, ma io voglio dire una cosa che volevamo fare noi, bella ammucchiata per prendere tutto il virus. Vabbè, mi pare che a Milano ci avevano già provato, però, eh. Sì, sì, ma loro continuano, però non fanno i party, fanno i COVID ape. No, vabbè, comunque in ogni caso, come gli averi COVID. Gli averi COVID, ragazzi, tocca brevettare questo hashtag, tocca. Sì, a proposito, non so se hai visto le Osho, comunque ha detto che Zingaretti comunque si è indignato perché ha detto "sti stronzi mica si sono fatti sentire". Infatti, perché ricordiamo che Zingaretti celebre perché prese il COVID nei primi giorni, nelle prime settimane di epidemia, proprio si presume, insomma, che possa anche averla diffuso o comunque contratto in occasione di un aperitivo in Lombardia. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Fatemi salutare Peppe Rizzard che ci ha raggiunto in chat pochi minuti fa e mi chiedeva numi riguardo alla birra, però era tutto discorso di prostata, pipì, eccetera, quindi lasciamolo dov'era, insomma, ecco. Ma invece voi avete, diciamo, sentore che questa epidemia finirà breve? No. Brevissimo, no. No, perché Trump invece continua a dire che andrà via da solo, no? Così. Ma per mancanza di potenziali ospiti, sicuramente sì. Ma anche per mancanza di tempo, cioè, ma sai quanto è impegnativo infettare H24, cioè nazioni intere, cioè, ma guarda che veramente ci vuole tempo, stessa pazienza. Cosa ha detto pure Zai, eh. Sì, sparirà senza un vaccino da solo, così. Ma no, vabbè, comunque ragazzi, a parte che oggi leggevo le prime smentite sul fatto che probabilmente il caldo non farà un baffo, no, le prime conferme che probabilmente il caldo non farà un baffo a sto virus, però vabbè, lasciamo perdere questa cosa. E si è parlato di tante cose legate a terapie, non terapie, possibilità, non possibilità. Nel frattempo, insomma, i numeri cominciano a calare, però dobbiamo aspettare le fatidiche due settimane dall'inizio della fase 2 per vedere se non c'è un rimbalzo del numero di contagi, anche se in parte probabilmente è assolutamente scontato che ci sarà, no? Un sì, piccolo... quello è scontato, sì. Dobbiamo atteso sapere è previsto. Quanto. È atteso e previsto che ci sia. Bisogna capire non, di che entità però. Esatto, bisogna si capire andrà a fisarmonica per un po', però dobbiamo vedere quanto sarà sto rialzo, perché se è un rialzo tremendo qua ci richiudiamo e De Luca in campagna non passerà più a distribuire le mascherine casa per casa, ma direttamente gli assi di legno con i chiodi. Esatto. Ragazzi, per esempio, la mascherina tipo The Purge e andrà in giro a uccidere gente, quindi. A proposito di questo, cominciano a uscire dei numeri veramente agghiaccianti dai confini russi, perché evidentemente la terapia da balcone non è sufficiente. La terapia è più un interessante sistema basato sulla censura No, ma allora la gravità che cadono dalle finestre, perché ricordiamoci che c'è stato questo strano fenomeno di tre medici, diciamo così, dissidenti, uso questo termine in mancanza di termini migliori, che sono misteriosamente caduti dalle finestre tutti quanti lo stesso giorno. Vabbè, ma d'altra parte, sai, quando ti affacci e magari non stai proprio bene, c'hai un calo di pressione. La Russia poi è famosa per le finestre per le che non sono sicure. Esatto, per le vertigini e per le finestre che non sono a prova di vertigini. Quindi, esatto. Cioè, uno tende a cadere in maniera devastante. Però ci sono arrivate buone notizie dalla Svezia, che ci ha confermato che tutto sommato il lockdown, cioè la clausura è inutile, no? Sì, sì, proprio. La continuano a dare le svedesi. Sì, sì, è un pochino controverso sto dato dalla Svezia, perché è un caso particolare, nel senso, cioè, non è che hanno detto ma no sti cazzi, lockdown non lo facciamo, facciamo l'immunità di gregge. In realtà loro dal punto di vista costituzionale non possono mettere in atto delle misure come le nostre, hanno affidato più da un punto di vista informativo, più in realtà hanno predisposto le misure tipo le scuole dal, cioè le scuole elementari e quelle dell'infanzia sono rimaste aperte, ma giusto per permettere di far lavorare i sanitari, però comunque assembramenti oltre le 50 persone non più. Già da quasi subito, da gennaio, hanno messo in modo delle misure, però più basandosi sul buon senso, tra virgolette, delle persone. Perché là comunque è una società un po' diversa dalla nostra. Poi da alcune fonti della stampa dicono che non sta servendo un cazzo, altri dicono serve, perché comunque dall'inizio i responsabili scientifici là hanno basato tutto su tutto evidence based. Per esempio hanno visto che da dei paper chiudere tutto, tipo chiudere, impedire i viaggi tra nazioni, non c'erano delle evidenze scientifiche e non hanno messo in atto sta cosa, questo e quest'altro. In realtà è un pochino dubbio, cioè non sto dicendo non è vero, ma semplicemente bisognerà capire chi cazzo ha ragione, perché la stampa italiana è confusissima. La stampa italiana avrò visto tipo quattro testate che dicono cose diverse. Chi dice ha funzionato, chi dice stanno morendo tutti, chi dice non esiste più a Svezia, chi dice la Svezia è uscita dal Covid. È un pochino controversa sta situazione. Vabbè, comunque, a proposito, comunque, torniamo un attimo solo. Posso? Perché volevo solo leggere questa cosa, Marco. Scusami, un commento di Lizard a Lobby Frontali, perché ne parlava prima. Torniamo rapidamente in campagna e parliamo di De Luca. Dice: se tu dicevi passerà casa per casa con le assi, come dice giustamente Peppe Lizard, al posto delle mascherine cominceranno a vendere i cavalli di Frisia. I cavalli di Frisia, tutti i fratacchioni, però. Esattamente. Marco, devi, scusa, vai. Io che ci sono probabilmente buone notizie dalla Cina, perché entro breve potrebbe essere completamente accantonato il problema del Covid, perché parrebbe che l'epatite dei ratti abbia, che praticamente fatto il salto di specie nel 2018, ma ci sono altri 10 casi che praticamente sono stati negli ultimi 2 anni 10 casi l'ultimo settimana scorsa. Quindi, ma se virale o è un'epatite di tipo virale? Basta non avere rapporti sessuali con i ratti, non mangiarli e non berli. No, perché non farsi mordere, pare. Ah, vabbè, ma tu sei proprio un maniaco, Puccio. Cioè, perché ti devi far mordere dai sorci? Sei un masochista. Vabbè, poi ognuno vive la sua sessualità come meglio crede. Non giudichiamo poi nessuno. Soprattutto con i topi. Poi insomma. Io preferisco con la topa, però. Vabbè, ragazzi, insomma. È sabato sera, vi rendete conto? L'ennesimo sabato sera di diretta di Ramtime, in cui non ci possiamo andare a fare l'aperitivo se non sul balcone, ecco, così. Tranne Alex, che è appena andato sui Navigli. Vabbè, ma insomma, si sa, Milano segue altre logiche, altri ritmi, è una città cosmopolita, non si può fermare per un virussino qualunque, ecco. Comunque. Io intanto sento rumori molesti di ogni tipo, però spero che siate tutti vivi. Io. Mi è arrivato un raschio nell'orecchio 2 secondi fa. Ecco un altro. Probabilmente sono dei sottofondi di casa Pizzi, che è rimasto qualche microfono aperto. Non ne sono sicuro, però insomma potrei immaginare questo. Può essere. Va bene, ragazzi, comunque noi più o meno abbiamo detto tutto per oggi. Anzi, è stato bello, lo ricordiamo, entrare con la live e dare la bellissima notizia di Silvia Romano, che è stata liberata. Abbiamo parlato anche delle vicissitudini della pericena milanese, dell'apericovid, come giustamente il buon Carmine. Sala si è levemente incazzato per questo. Ah, beh, però, ma così, dai, insomma, non è sì, che... Sì, in realtà, cioè, non è stata chissà che grande sfuriata, però... Cioè... No, però venendo da Sala è indicativa, perché comunque Consilina? È abbastanza misurato. Sala Consilina? Sì. Se ne potrebbero raccontare... La capiranno in pochissimi. Piano Romano... Sala Consilina è famosa. Vabbè, diciamo che l'autogrill di Sala Consilina è l'autogrill delle sole per definizione, quello dell'autoradio col pacco. Insomma, se volete prendere una sola, almeno questa è una cosa degli anni 70-80. Magari adesso è un po' cambiata la situazione generale, perché non vanno più tantissimo di moda queste finte sole, cioè queste sole con finti oggetti ricettati che poi in realtà sono scatole vuote. Però insomma, all'epoca con i beni ricettati, videoregistratori, le telecamere, l'oro, quelli col mattone, quelli col mattone lì proprio era, come dire, era l'epicentro mondiale di questa scuola di truffa. Ecco, vabbè, detto la questo palestra. Eh sì, esatto. Detto questo, Rizzard ci chiedeva quindi niente topo e zoccolone per quanto riguardava il nuovo salto di specie. Non lo so, io a un certo punto dico di qualcosa dobbiamo morire, almeno che sia piacevole, ecco. Quindi vediamo un po'. Ragazzi, voi che altro avete da aggiungere dai vostri lidi, ecco? Ma io niente. Non c'ho nulla. Vai un po' alla finestra, scusa. No, comunque Marco è giudice. Marco ha bisogno di un supporto psicologico. È tornato al lavoro. Mi si è ammosciato come la pianta che non viene annaffiata. Cioè, qui sotto ci sono. Così io guardo intorno. Ci saranno 7 persone. Cioè, tutte accomunate dal virus. Tra l'altro, 7 è un numero particolare. Sarà una coincidenza? Io non credo. 7 pepette. 7 pepette. E l'uno? Il cazzo! Lo sappi. Se me lo chiedi così, ti rispondo così, eh. Io vorrei dare conferma a chi sente quel pezzo di latte e i suoi derivati che, è superata una certa età, raccontare le favole ai bambini va esattamente in questo modo. Sì, perché l'esasperazione del padre che legge la fiaba è quella, immagino, vero? Va bene, qualche volta in prediretta otto il passerotto dei latte, lo mettiamo così, poi magari chi non la conosce capisce anche di cosa stavamo parlando. Beh, ragazzi, allora facciamo una cosa. Prima di fare il giro di saluti, io metterei un piccolissimo spot che riguarda sempre le produzioni di Runtime, poi torniamo e ci accomiatiamo dal pubblico, va bene? Va buona. Ok. Ok, capo. Un altro architetto, designer, art creator, lifestylist che parla di architettura. Snap, Architettura Imperfetta, è il podcast del network Runtime Radio dedicato alle nuove tecnologie informatiche nel moderno processo di progettazione architettonica. BIM, realtà aumentata e virtuale, progettazione parametrica, algoritmica e generativa e tanto altro ancora. Io sono Roberto Marin ed ogni settimana ti racconto conoscenze ed esperienze utili a far evolvere digitalmente il mondo progettuale dell'architetto. Ti aspetto nella prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia. E questo era lo spot di Snap, Architettura Imperfetta. Siamo rientrati per dare gli ultimi saluti. Io so che non ci stanno ascoltando, ma i pizzi hanno il microfono aperto e stanno facendo i rumori di ogni roba che Marco Gualdi, in confronto, è un dilettante con la sua capsula. Vabbè, io non li sto sentendo più. No, ma non ci sono. Ma non ci sono. Non è vero, non ci sono i pizzi. Questa è casa console. Esatto. Sto seduto e non mi sto muovendo, un po' improbabile. Va bene, ragazzi, ma direi che anche oggi l'abbiamo portata a casa. La nostra oretta è un quarto. Siamo soddisfatti. Permettetemi di salutare tutti gli amici in chat. Ci hanno fatto compagnia. Ci hanno raggiunto per ultimi, ma non per ultimi: Rizzard, Roberto Tomaiolo, Stefano al 9000. Poi c'era Girasole, c'era Kate, c'era la famiglia Pizzi nel doppio ruolo di ascoltatori e partecipanti. C'è stato Alex Arcuglia con noi, che ci ha raccontato un po' la situazione milanese. A questo punto permettetemi anche di salutare tutti quelli che ci hanno fatto compagnia a questi microfoni oggi. Da Reggio Emilia, Lobby Frontali. Buonasera a tutti. Breaking news mi è arrivata, non so da quale testata proviene questa notizia, la leggo proprio letteralmente: è morto il padre della donna che è in carcere con l'accusa di aver fatto a pezzi il corpo della madre. E con questo vi lascio. Ci rimugino un paio di giorni e poi ti faccio sapere. Ricostruiamo i contatti. Esatto. Saluto dalle Puglie Carmine Puccio Console e anche Clelia, che ci ha preceduto con la sua diretta insieme a Michela di Ricette Apocalittiche. Ciao Carmine. Ciao a tutti. E saluto il triste Marco, che non distruggitura, non distruggitura più niente praticamente. Quindi lo saluteremo fate semplicemente tutto da Marco. Voi. Fate tutto da voi, cioè ormai mi avete tolto il lavoro, mi avete tolto i Covid party. Cioè, ma falli in agenzia, che lì anche piccola piccola metti 50 persone in quei 3 metri quadri, a voglia Covid party. Una tristezza. Ragazzi, vi do l'arrivederci anch'io. Vi ricordo che, salvo imprevisti, torneremo con la live del lunedì sera di OGM. Quindi potrete ascoltarci a partire dalle 21 con ottimisti. Una volta eravamo ottimisti, con oltranzisti gastricamente mortificati, in una formazione sempre variabile. Chi vorrà, ormai siamo tutti padroni di casa, quindi ci farà piacere. Vi diamo appuntamento quindi a lunedì. E vi ricordo, tra poco, tra qualche ora dopo cena con calma, anche l'appuntamento con Runtime de Notte, il nuovo format delle confessioni inappropriate, con Simone, Michela e tutti quelli che vorranno partecipare. Ciao ragazzi. Ciao. Bow, bow, bow. Ciao, ciao, ciao.